Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti in regia. La parte tecnica oggi abbiamo Valeria Bernardi, in realtà ce l'avevamo anche ieri, ma non so, oggi sono più contenta ancora di vederla, Laura Vanossi in redazione, ma io oggi sono particolarmente felice perché ho qua in studio davanti a me il dottor Confalonieri. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Ma quanto ci è mancato? Tanto, sa? Non so, io lei? A me siete mancati, spero di essere mancato un pochino a voi e agli ascoltatori. Senta, ma perché le siamo mancate? Che cosa ha sentito? Ci descriva. È mancato un po'. L'adrenalina di questo incontro settimanale, poi? Il piacere di vedervi e di ascoltare anche gli ascoltatori insieme, insomma. E quindi? E quindi ero un po' triste, un po' giù di tono, ci è voluto tutto il weekend lungo per recuperare. E adesso? Adesso va benissimo. Magnifico, ecco, abbiamo voluto farci, gliel'abbiamo un po' tirato fuori con i denti, farci fare un po' di complimenti, insomma siamo contenti di esserle mancate e non manca invece il nostro sommario, andiamo. Sportivo della domenica. Più rischi o vantaggi? Diventa maratoneta. Corri con Teleton. Facciamoci una tisana. Allora, dottor Confalonieri, oggi lei deve affrontare un tema difficile, per cui vede cosa vuol dire non venire tutti i venerdì. Ecco, in fondo è un po' una punizione, perché vogliamo rivolgerci alle persone che, per una serie di motivi che andremo ad analizzare, decidono di praticare attività sportiva solo una volta alla settimana. Lei insiste molto sulla gradualità, però ci ha sempre anche detto che l'attività sportiva va praticata con una certa frequenza, almeno 2 o 3 volte alla settimana. A questo si aggiungono i consigli dei suoi colleghi che dicono almeno mezz'ora di camminata al giorno. Invece ci sono persone che rimangono ferme e alla domenica, diciamo così, lo sportivo della domenica, ma può essere il martedì per il calcetto, il giovedì, ciascuno si sceglie un po' il giorno, si scatenano e poi di nuovo per una settimana spengono il motore. Allora, più rischi o più vantaggi? E piace? Sì. Difficile? Abbastanza. Bene, diciamo bene. Che intanto chiediamo subito l'aiuto ai nostri ascoltatori da casa. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, quindi aiutate il dottor Confalonieri, se no rema un po', e i messaggi al 349 238 6666. Potremmo parlare anche di canottaggio a proposito di remi, eh? Non ne parliamo, insomma, è dura. Magari c'è uno dei nostri ascoltatori, magari. Il nostro Andrea della Poltrona, sì, che non si è più fatto che vivo. Non lo sentiamo. Vabbè, allora. Per rispondere alla domanda, diciamo che io insisto spesso col concetto di gradualità, è vero, però insisto anche col concetto di continuità, che è altrettanto importante. Quindi lo sport fatto una volta alla settimana comunque è di solito compatibile con tutti gli impegni della nostra vita di lavoro e di famiglia e quindi ci garantisce continuità. Per cui è sicuramente preferibile al non fare nulla ed è preferibile anche a fare tanto sport soltanto in alcuni periodi dell'anno. Per essere ancora più concreti, molto meglio fare sport tutte le domeniche o tutti i lunedì, il calcetto piuttosto che lo squash, che farlo soltanto la settimana Natale, la settimana Pasqua, piuttosto che 15 giorni in estate. Questa è un'abitudine molto più rischiosa. Fatto una volta alla settimana, tutto sommato sono molto maggiori i vantaggi che non le controindicazioni. Domande per i nostri ascoltatori? La domanda è un po' questa, ma la vostra scelta di fare sport una volta alla settimana è legata al fatto che sentite che questa è la dose giusta, quindi sport in dosi moderate, oppure è legata al fatto che non potete proprio farne di più, quindi la vita vi impedisce di farne di più ma vorreste farne anche 3-4 volte alla settimana lo sport. Capire insomma se è più una scelta o più un obbligo. 800 24 0024 per rispondere a queste domande. E poi vorrei aggiungere anche un'ulteriore domanda a tutti quegli ascoltatori che non riescono a farlo neanche una volta alla settimana. Voi non lo fate neanche una volta alla settimana perché non ci riuscite attività proprio? Fisica. Sì, attività fisica. Perché non riuscite proprio o perché è una scelta non fare l'attività? 349 238 6666 se volete mandarci un messaggio. Una mela al giorno. parte oggi la maratona Telethon sulle reti Rai, un appuntamento che ha permesso in 20 anni di raccogliere e stanziare per la ricerca oltre 299 milioni di euro utilizzati per finanziare ben 2200 progetti di ricerca volti proprio a studiare le malattie genetiche, 444 per l'esattezza. Ma la ricerca continua e chiede come ogni anno un aiuto per continuare il suo cammino. E noi naturalmente non possiamo mancare, anche perché l'11, il 12 e il 13 di questo mese abbiamo un record da battere. I 31.056.653 euro totalizzati lo scorso anno. Allora non ci resta che correre e oggi vi voglio dare tre buone ragioni per diventare maratoneti e sostenere Telethon. In linea con noi tre ricercatori che hanno tagliato traguardi importanti. Saluto il professor Alberto Auricchio, associato di genetica medica all'Università Federico II di Napoli e ricercatore presso il TIGEM di Napoli. Professor Auricchio, bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. In linea con noi la professoressa Silvia Priori, professore associato di cardiologia presso l'Università di Pavia e direttore scientifico della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia. Professoressa Priori, grazie, bentornata. Buongiorno. E in linea il professor Luigi Naldini, che è direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genetica di Milano. Professor Naldini, grazie, buongiorno. Buongiorno e grazie. A ciascuno di voi chiedo allora di raccontarci cosa siete riusciti a fare grazie al sostegno di chi ha creduto in voi e nella ricerca. Professor Auricchio, inizierei da lei. Da anni la sua ricerca si concentra su una malattia che colpisce la retina, provocando cecità o grave danneggiamento della vista fin dall'infanzia. In genere l'esordio proprio nei primi 6 mesi di vita ed è per questo che viene ritenuta la causa più frequente di cecità infantile ereditaria. È la Maurosi congenita di Leber. Ci racconta che cosa siete riusciti a fare? Sì, ad ottobre del 2007, quindi oramai più di 2 anni fa, abbiamo cominciato una sperimentazione clinica di terapia genica in pazienti affetti da Maurosi congenita di Leber, come risultato di una collaborazione tra appunto il TIGEM e il Dipartimento di Oculistica della Seconda Università di Napoli e il Children's Hospital di Filadelfia. Questa sperimentazione ha portato, diciamo, al trattamento di 12 pazienti, di cui ben 5 sono pazienti italiani affetti appunto da Maurosi, e i risultati sono molto promettenti perché in tutti i pazienti che sono stati trattati come pazienti legalmente ciechi c'è stato un parziale recupero della funzionalità visiva che rimane stabile oramai nei primi pazienti a 2 anni dal trattamento, quindi è un trattamento che si fa un'unica volta e i cui risultati per il momento sono stabili a 2 anni dal trattamento. Professor Auricchio, questo è il presente, ma cosa c'è dietro l'angolo? Sicuramente, diciamo, questa è una notizia molto importante per la Maurosi congenita di Leber e per le altre malattie rare dell'occhio. In generale sono risultati importanti, i risultati, diciamo, sulle malattie rare di questo tipo sono importanti perché hanno anche ricadute per malattie molto più frequenti, che per esempio nel caso della vista sono la degenerazione maculare senile o la retinopatia diabetica, proprio perché sulle malattie rare è possibile testare, sulle malattie rare che sono appunto spesso gravi, è possibile testare terapie sperimentali che poi possono avere applicazioni su malattie molto più comuni. Professor Auricchio, grazie per essere stato con noi e soprattutto grazie per i risultati. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Professor Naldini, veniamo a lei. Lei ha domesticato il virus dell'AIDS, l'HIV, e poi direi sfruttandone le potenzialità infettive se ne è servito per una malattia neurodegenerativa progressiva, la leucodistrofia metacromatica. Ci racconta perché avete fatto questo e a quali risultati siete arrivati? Ecco, perché domesticare un virus? Quando siamo di fronte a delle malattie genetiche rare, sappiamo che il problema, anzi purtroppo i gravi problemi che queste malattie hanno, nascono da un gene difettoso. E abbiamo imparato che si possono usare questi stessi geni, utilizzandone una copia funzionante, per curare la malattia, introducendo il gene nelle cellule malate e quindi ripristinandone la funzione. Ma per introdurre i geni nelle cellule malate dobbiamo sfruttare dei meccanismi difficili, dobbiamo superare le barriere che le cellule hanno contro questa introduzione. I virus hanno fatto proprio questo, nella evoluzione hanno imparato a portare nelle cellule i loro geni, che sono naturalmente causa di malattia. Addomesticare un virus vuol dire modificare, sfruttandone la capacità infettiva, cioè di entrare nelle cellule, ma fargli portare un gene terapeutico e non un gene infettivo. Abbiamo usato HIV perché è un virus particolarmente infettivo e particolarmente efficace a entrare nelle cellule. Naturalmente è un virus che fa paura e quindi abbiamo dovuto lavorarci anni per mantenere la sua capacità di portare i geni a nostro favore e non causare però malattia. Oggi siamo arrivati a questo traguardo e siamo vicini a sperimentarlo nell'uomo, su questa malattia che lei diceva, la leucodistrofia metacromatica, che è una malattia che colpisce il sistema nervoso, colpisce l'infanzia. Oggi purtroppo non ha terapia, è una di queste malattie terribili che compaiono nei primi anni di vita e sono una condanna quando vengono diagnosticate. Noi sappiamo che nel modello animale della malattia la terapia genica, cioè usare un virus addomesticato che porta nelle cellule colpite un gene funzionante, ha permesso di prevenire lo sviluppo dei sintomi. Oggi il grande passo è di arrivare a sperimentare questo sull'uomo e siamo vicini, proprio con il contributo di Teleton, a partire con questo, sperabilmente già tra qualche mese. Professor Naldini, grazie. Quindi ecco un'altra buona ragione per continuare a investire nella ricerca e quindi sostenere Teleton. Professor Naldini, grazie, buona giornata. Grazie anche a voi. E chiudiamo con la professoressa Silvia Priori, che si occupa da anni di un gruppo di malattie ereditarie del cuore che sono caratterizzate dalla tendenza ad andare incontro ad alterazioni del ritmo cardiaco. Tra queste ce n'è una che si manifesta in età pediatrica e giovanile con alterazioni così gravi del ritmo cardiaco che possono portare anche a morte improvvisa. Anche in questo caso però, professoressa Priori, il vostro impegno ha raggiunto risultati davvero importanti. Allora, vuole raccontarceli con parole semplici, giusto per farci capire, sottolineare che puntare su di voi è vincente? Per molti anni queste malattie sono state un grave mistero. Famiglie che vedevano soggetti giovani apparentemente sani morire improvvisamente e non si riusciva a capire la causa, perché una valutazione clinica del cuore non identificava assolutamente nessun difetto. È stata proprio la possibilità di raggiungere una scoperta genetica di quali sono i geni implicati in queste malattie che ha completamente rivoluzionato questo campo. A questo punto, sapendo qual è il gene responsabile di queste malattie, noi possiamo fare la diagnosi nei pazienti e quindi arrivare a capire perché il cuore di un ragazzo giovane può improvvisamente fermarsi durante una partita di calcio o un'interrogazione a scuola. Infatti l'emozione scatena questi arresti cardiaci. Quando questo difetto genetico viene identificato, la cosa più importante è che possiamo veramente cambiare la sopravvivenza di questi pazienti. Esistono infatti delle terapie farmacologiche, quindi dei farmaci, o anche delle terapie che implicano l'impianto di apparecchi che fanno ripartire il cuore che si ferma in seguito a queste risposte. Con questo tipo di unione fra l'analisi genetica e la terapia mirata soltanto ai membri della famiglia portatori del difetto genetico che mette a rischio il cuore, siamo riusciti a cambiare radicalmente i profili di sopravvivenza di queste persone. Siamo passati da un 50% di mortalità a 10 anni a un 8-9% di arresto cardiaco a 10 anni, che solo raramente si trasforma in mortalità, in quanto questi pazienti possono sopravvivere anche all'arresto cardiaco avendo un defibrillatore impiantato. Ovviamente la ricerca prosegue e ha bisogno di andare oltre. Andare oltre oggi vuole dire identificare delle nuove terapie che possano correggere questo difetto e permettere a questi pazienti di avere la sopravvivenza già buona che hanno, ma una qualità di vita ancora migliore, e quindi possibilmente evitare anche l'impianto di questi defibrillatori. Un'altra cosa che vorrei dire, perché è importante riguardo al fatto di fare degli investimenti nella ricerca di questo tipo di malattie rare, è seguente. Una cosa importante che abbiamo imparato che quando sappiamo di che gene si parla e riusciamo ad andare a cercare questo gene nella popolazione, scopriamo che le malattie sono molto meno rare di quanto ci eravamo immaginati guardando solo i pazienti da un punto di vista clinico. Per cui le malattie di cui ci occupiamo noi, questi arresti cardiaci su base genetica, hanno oggi una presenza nella popolazione di circa 1 su 2.000-2.500 persone, che se pensiamo a 60 milioni di persone in Italia vuol dire decine di migliaia di pazienti affetti che beneficiano delle ricerche che vengono fatte. E non solo, ma anche la possibilità di capire meglio come funziona l'elettricità del cuore ci dà delle armi che partono per le malattie genetiche, ma poi sono utili e ci aiutano anche a trattare i pazienti che hanno arresti cardiaci di altra causa. Quindi il nostro impegno continua e abbiamo bisogno di un aiuto e di un supporto da persone che credono nei risultati della ricerca in ambito genetico. E allora abbiamo a disposizione l'11, il 12 e il 13 per correre insieme alla ricerca diventando maratoneti e sostenendo Telethon. Io ringrazio la professoressa Priori per essere restata con noi. Buona giornata, buona ricerca. Grazie professoressa. Arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo ad allenarci. Oggi parliamo ai nostri ascoltatori che si allenano, giocano, si divertono, fanno attività sportiva solo una volta alla settimana. Le ragioni sono tante, prevalgono comunque tra i messaggi i nostri ascoltatori che dicono non ho tempo. E quindi lei quante volte, dottor Confalonieri, quante volte? Una volta ogni due settimane lo sport. Così poco? E di più non ce la faccio in questo momento. Allora, io invece devo leggerle moltissimi messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 e poi abbiamo anche Luigi dalla provincia di Milano che intanto saluto. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo subito da lei, ma devo dare la precedenza ad alcuni messaggi. Attività subacquea, dottor Confalonieri, solo nel weekend, passione che dura da anni. Un commento per cortesia, ci scrive Milo. Beh, non abbiamo mai parlato di attività subacquea, è un bello spunto perché sono tantissimi gli appassionati, sicuramente valida come scelta, abbinata magari con un periodo più lungo durante le vacanze. In questo caso è uno sport estremamente allenante, necessita un perfetto allenamento cardiovascolare e magari un riscaldamento prolungato prima per evitare che lo sforzo risulti poi troppo intenso. Mi viene l'affanno solo per arrivare al cancello di casa che sta a 50 metri in salita. Come faccio a fare sport? Tante volte si butta la spugna perché ci si sente talmente stracci che non resisto. Questa è una domanda che credo coinvolga interesse in moltissime persone, moltissimi fra i nostri ascoltatori. Qui c'è una totale mancanza di allenamento fisico, quindi c'è un apparato cardiovascolare gravemente disallenato. Qua la scelta non può essere quella di fare sport una volta alla settimana, ma deve necessariamente essere quella di cominciare con 5, 6, 10 minuti al massimo tutti i giorni, anche soltanto di camminata. In questo modo comincerà a sparire l'affanno e si potrà pensare anche di fare sport in modo un po' più effettivo. Commenteremo dopo il messaggio di Moreno da Vicenza che ci scrive: non ho mai fatto sport in vita mia, tranne un po' di piscina più di 20 anni fa. Ho 46 anni, sono iperteso, ma per il resto sto bene. Ma bisogna proprio farlo questo sport. Commento subito, è iperteso, quindi nel suo caso varrebbe la pena di farlo, non è necessario per tutti, ma è chiaro che un po' di attività aerobica ridurrebbe i problemi legati all'ipertensione e l'ipertensione stessa. Luigi, eccoci a lei, buongiorno. Sì, buongiorno, ascolti, io ho 62 anni e da 4 anni pratico la corsa praticamente. Sì. Il mio problema è questo: essendo ancora impiegato in un'attività lavorativa, sono un piccolo imprenditore. Sì. Ecco, d'estate il problema non esiste perché corre di più, d'inverno sono lunghe. Ecco, lunghe vado anche 4, a volte perfino 5 volte a settimana a fare un'oretta di corsa. Il problema è d'inverno, che riesco ad andare un paio di volte magari a settimana, come in questo periodo. Già due volte sono più di una. Non mi piace assolutamente né la palestra, vado ogni tanto in piscina se mi capita, ma io la palestra proprio non la sopporto, non mi piace proprio. Ecco, volevo chiedere se questo, perché poi è evidente che essendo poco allenato poi se mi capita di fare i percorsi un po' lunghi. Non ha grande, Luigi, non ha grande tempo di allenarci, le giornate sono corte, dottor Confalonieri. Già Luigi comunque si allena due volte alla settimana, noi prendiamo ascoltatori che si muovono una volta sola, ma per dare un consiglio a Luigi? Va assolutamente bene, anche perché lui con uno o due allenamenti a settimana durante la fase invernale mantiene quello che costruisce d'estate con i 3-4 allenamenti, quindi è un approccio e una programmazione dell'allenamento, dello sport annuale assolutamente corretta e positiva. Allora, adesso noi andiamo a sentire i mercati. 824 0024, un ascoltatore mi dice che la mette in imbarazzo, è vero? No. Ok. Non lo mette in imbarazzo, signor ascoltatore. Eccoci, finalmente siamo tornati perché abbiamo tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Il tema dell'attività sportiva una volta alla settimana davvero sta riscuotendo molto successo. Abbiamo Daniele che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno Daniele. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Tutte le volte che sono in macchina vi ascolto volentieri. Bravo Daniele, fa la cosa giusta. Allora, via con la domanda. Allora, io vado, pratico il ciclismo e esco solo la domenica per motivi di tempo, in settimana lavorando a 35 km da casa e praticando una strada molto trafficata non riesco ad arrivare in tempo utile, sì, per poter uscire in bicicletta. E vabbè, d'estate quando arriva l'ora legale riesco a ritagliarmi un po' più di tempo, però ho notato una cosa, che se io salto una domenica e intervallo dopo 15 giorni l'uscita in bicicletta mi rende di più la pedalata rispetto a fare una frequenza più ravvicinata. Dai, è vero? Daniele, dottor Confalonieri, scusi, volevo sentire il suo parere. Sì, può essere, nel senso che probabilmente nelle sue uscite domenicali Daniele comunque non si risparmia, fa uscite relativamente lunghe, magari anche con parecchie salite, percorsi impegnativi. La zona di Lecco è ricchissima di percorsi impegnativi, quindi ritengo che sia quello, e quindi non recupera completamente questo sforzo monosettimanale la settimana successiva. Quindi spinge troppo sul pedale. Non è che spinga troppo, tutto sommato non è un grave problema, però è corretto che avverta queste sensazioni. Il mio consiglio sarebbe, da questo punto di vista, magari strutturare l'uscita facendo un riscaldamento adeguato, poi tutta la parte più impegnativa con le salite, e poi prolungare un po' la parte finale di defaticamento dedicandosi al lungo lago e quindi a un percorso pianeggiante. In questo modo favorisce il recupero, e poi fare un po' di stretching il giorno stesso e la mattina dopo. Dottor Confalonieri, tutti gli sport sono uguali o, dovendone scegliere uno per praticarlo una volta alla settimana, è meglio dare la preferenza, non lo so, ad esempio al nuoto piuttosto che alla corsa, alla bici piuttosto che al tennis? Ma dal punto di vista così della salute, volendo essere molto sintetici, probabilmente è meglio privilegiare gli sport di tipo aerobico, quindi più classici, il ciclismo, la corsa lenta, il nuoto. Però c'è una componente fondamentale nello sport, che è quella ludica, quella del divertimento, quella del piacere di stare insieme agli altri, e sicuramente sport come il tennis, lo squash, soprattutto il calcetto, che è il più praticato in Italia dagli sportivi monosettimanali, sono più divertenti, sono più gratificanti, e quindi siccome l'obiettivo di fare sport è stare globalmente meglio, eh certo, allora sono almeno consigliabili quanto gli altri, io credo. Allora, voi uomini solitamente avete un vantaggio in più, direi, no? Siete più, quasi più fortunati, perché avete il calcio, il calcetto che vi aggrega. Per noi donne può essere la lezione di Pilates, lo yoga, la ginnastica che si fa in palestra, però devo dire che io vi invidio molto il calcio e il calcetto, perché poi ho racconti di queste partite che poi finiscono insieme agli amici, si va a bere qualcosa, eccetera. E allora in linea con noi ho un amico che in realtà è un cantante, ma è anche un bravissimo giocatore, gioca nella nazionale cantanti, ed è Paolo Belli. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Beh, insomma, io sono il classico italiano medio sportivo, e è proprio l'esempio lampante del fatto che lo sport fa male. Perché quando vado a giocare a calcetto vengo a casa e mi sono fatto male un ginocchio, la caviglia, eccetera. Vado a giocare a tennis e mi fa male la spalla, il gomito. Vado in bicicletta e mi fa male la schiena. Quindi è veramente falso il fatto che lo sport sia salutare. Anzi, io credo che l'unica cosa che sia lo sport è salutare, si può salutare da lontano, insomma. Però sono quello che non riesce a farne a meno, perché come hai detto giustamente tu adesso, cioè il fatto che gli amici ti chiamano per fare il calcetto, vai a giocare a tennis o vai in bicicletta, è una forma straordinaria di aggregazione che ti fa sembrare di stare bene, ma se hai 20 anni e un conto, farla dei 40 in su, secondo me, come dice il dottore, bisognerebbe essere un po' più attenti, un po' più oculati, insomma. Ad esempio, ho appena finito di parlare di stretching, sì. È una cosa che io sento sempre parlare da tantissimo tempo, ma il dottore sa perfettamente che quando si va a giocare, ok, pronti, via, cioè non si perde tempo a fare. Paolo, tu sei troppo forte, io ti adoro, dottor Confalonieri. Ma è una splendida testimonianza, e direi che è vero, lo sport fa male, nel senso che dopo abbiamo qualche dolorino, però è una testimonianza del fatto che fa bene, perché io ripeto, noi dobbiamo sempre guardare la nostra salute a 360 gradi, e quindi se stiamo meglio dal punto di vista dell'umore, se ci siamo divertiti, se siamo stati con gli altri, se ci piacciamo un po' di più la mattina dopo, anche con qualche dolorino, pensando allo sport che abbiamo fatto la sera prima, lo sport ci ha fatto bene perché stiamo meglio. Poi magari, ecco, un minimo di accorgimenti, sicuramente non lo stretching prima, infatti ne parlavo per un ciclista dopo, perché è impensabile quando si arriva al campo si ha soltanto voglia di giocare e di calciare il pallone, però qualche accorgimento, un pochino di ginnastica ogni tanto, un pochino di attenzione a quel settore un po' più debole può ridurre i rischi, però credo che in ogni caso i benefici per la nostra persona siano senz'altro superiori in ogni caso. Dottore, volevo dire però che fare lo sport, no? Andare a giocare a calcetto, a tennis con gli amici, poi c'ha anche una controindicazione, che poi dopo si va tutti in birreria, no? E con la scusa di aver fatto il calcetto dice: beh, stasera posso esagerare con la pizza e la birra. E quindi sono un po' delle incongruenze, però io credo che io non riesco a vivere senza sport, credo che la bellezza dello sport sia proprio questo, il fatto che comunque ti riesce a far tornare un po' bambino, a staccare la spina, e se riuscissimo anche qualche volta a seguire un po' le giuste cose che ci dicono i dottori, fare un po' di stretch, stare un po' attenti con l'alimentazione, veramente possiamo avere dei benefici. Senti Paolo, tra l'altro tu partecipi alla maratona di Telethon. Sì, esatto. Comincia oggi alle 14:10, invito tutti quanti a Noi abbiamo avuto tre ricercatori che devo dire che hanno tagliato traguardi importantissimi, e l'abbiamo ricordato, ma come sempre tu sei presente, quindi oltre ad essere uno sportivo e che parli dello sport in modo davvero, no? Dici tutte le cose che tutti pensate, in fondo, la maggior parte di voi pensano. Pensano sicuramente. Però so che partecipi, non manchi a questo appuntamento importante, quindi sei comunque un maratoneta. Noi in questi tre giorni è una maratona che riesco a fare però una maratona assolutamente importante. Paolo, un abbraccio forte e grande, grazie, ciao per essere stato con noi. Andiamo da Brescia, ti aspetta Attilio, buongiorno. Attilio, anch'io mi associo all'apprezzamento e all'interesse per la trasmissione e faccio due domande telegrafiche. Sì. La prima, mi sembra che il dottor Confalonieri abbia detto che la frequenza di pratica sportiva una volta settimanale sarebbe, diciamo, grosso modo il minimo. Credo che sarebbe estremamente interessante, da una persona consapevole, chi più di lui, che ci dicesse come mai ha riconosciuto di non riuscire ultimamente a farlo che una volta ogni due settimane. Perché molte persone penso si possano immedesimare in questa difficoltà, che io personalmente viceversa non ho. La seconda cosa è questa: mi sono autoconvinto, da quello che ho sentito, da quello che ho letto, avendo mai passato i 50 anni, che sia meglio sacrificare l'attività di corsa, o meglio farne poca, in favore del ciclismo, dello sci di fondo, per, diciamo così, risparmiare articolazioni, ginocchia. Faccio bene o non ha senso, è inutile? Allora, grazie Attilio, due domande. Una personale che però cerchiamo di trasformare nell'interesse collettivo. Grazie. Allora, indubbiamente la vita spesso è molto molto impegnativa, e quindi diventa difficile ritagliarsi uno spazio per lo sport. Io poi c'ho l'aggravante che, occupandomi di sport tutti i giorni, quando ho un po' di tempo libero cerco di fare qualcos'altro. Però ho un accorgimento, cioè anche in una fase come questa in cui nuoto in modo continuativo, magari soltanto una volta ogni 15 giorni, non una volta o due volte a settimana come d'abitudine, incremento i percorsi a piedi nella mia vita quotidiana. Cioè cerco tutti i giorni di camminare, anche per quelle che sono le attività normali, lavorative o quant'altro, dai 30 ai 45 minuti. In questo modo posso dire che c'è un minimo di continuità in termini di attività fisica, però senza portare via spazio a tutto il resto che fa la nostra vita. Rispetto alle scelte di Attilio, direi che sicuramente il ciclismo e lo sci di fondo sono attività con un impatto traumatico molto minore della corsa, sono più difficili da organizzare e da praticare, quindi questo è il motivo per cui la corsa tutto sommato è ancora lo sport più diffuso, che piace di più e che incontra più persone, però soprattutto perché ha qualche problema di tipo muscolo-scheletrico, di tipo posturale, il ciclismo e lo sci di fondo rappresentano un'alternativa ideale alla corsa. Dottor Confalonieri, rispondiamo ad un ascoltatore, studente universitario, che ci scrive: tra lezioni e studio mi manca il tempo effettivo da dedicare allo sport. Mi è stato consigliato dal medico di effettuare almeno un paio di serie da 30 addominali al giorno. Sono tanti? No. Pochi. Ma non perdo neanche un grammo del mio peso, per cui mi chiedevo se fosse un esercizio sufficiente o se davvero non sia meglio una bella camminata da 30 minuti al giorno. Cosa ne pensate? Gabriele da Palermo. Sì, è una domanda molto interessante. Diciamo che i 30 addominali al giorno sono davvero un po' pochini e poi comunque se hanno una funzione non è tanto quella di perdere peso quanto quella di stabilizzare la colonna, soprattutto a livello lombare, e quindi magari ci aiutano da quel punto di vista lì, se fatti bene, se fatti correttamente. Per perdere peso, per mantenere la forma fisica, sicuramente sono più consigliabili i 30 minuti di camminata, magari a passo veloce perché è ancora più utile, fatti tutti i giorni o almeno 3-4 volte a settimana. Poi Gabriele ha la fortuna di abitare a Palermo. Esatto, cosa c'è di meglio? Meglio. Ma io mi chiedevo, per rispondere appunto ai tanti ascoltatori che ci scrivono: vivo in una casa a due piani, continuo a fare scale avanti in tre, e potrebbe essere già questa una forma di esercizio, di allenante? C'è anche un tecnico ascensorista che dice: con tutte le scale che faccio per riparare gli ascensori mi può essere utile. Allora mi piacerebbe vedere quale attività che svolgiamo per necessità, quasi senza accorgercene, può in qualche modo essere considerata allenante. E intanto saluto anche Sara, che ci chiama da Livorno. Buongiorno Sara. Buongiorno. Sara, stavo pensando, noi donne, quando anche facciamo i lavori a casa e fai i letti e passa l'aspirapolvere, non so, Sara? Il mio lavoro faccio la colza. Ecco, vede, cado a fagioli. Tutte le mattine infatti ho il cellulare con l'auricolare e io ascolto tutte le mattine dalle 9 all'1, 5 giorni alla settimana, ascolto la di 24, per cui mi sento così sempre. Le teniamo compagnia. Sara, in effetti... Comunque faccio un lavoro pesante, nel senso pesante. Quindi io dalle 9 all'1 faccio un lavoro fisico, lavoro in una grande casa con 3 piani di scale, pulisco vetri, pulisco pavimenti. Quindi poi io ho sempre fatto sport... diciamo andavo in piscina, ma poi adesso facendo questo lavoro sinceramente quando finisco a l'una se l'è guadagnata la sua forma fisica. Dottor Confalonieri, servono i lavori a casa, le scale per allenarci, per tenerci in forma, o sono... Sicuramente se c'è un vantaggio in un lavoro così pesante è senz'altro quello di mantenere una buona forma fisica, anche perché di solito i lavori sono abbastanza variati e quindi c'è un impegno anche globale di tutta la muscolatura con sforzi anche di tipo diverso. L'unico consiglio che mi sentirei di dare a Sara è magari il sabato e la domenica, anche per rilassarsi, anche per frequentare ambienti un po' più piacevoli, una bella passeggiata a piedi piuttosto che in bicicletta, assolutamente rilassata, però un'attività lenta, un ritmo lento, senza obblighi, che le consenta di usare il suo corpo in un modo un pochettino diverso. Grazie Sara, aveva un'altra domanda? No, grazie, buongiorno. Brava allora. Noi, dottor Confalonieri, dovevo ancora una risposta sulle scale. Le scale sono un esercizio eccellente, estremamente allenante, quindi anche la scelta di fare uno o due piani di scale tutti i giorni è sicuramente un allenamento efficace e quasi autosufficiente. Senta, allora vogliamo aggiungerne altri di questi consigli? Cioè, abbiamo le scale, e la classica raccomandazione: scendete una fermata prima dall'autobus per andare a piedi. Assolutamente. parcheggiate lontano anche in autogrill piuttosto che in città, scendete una fermata prima, scegliete l'edicola più lontana, giocate con i vostri bambini, fate le scale a piedi, sono tutti esercizi estremamente utili e che si possiamo inserire nella nostra routine quotidiana. Allora, e magari nella routine quotidiana, adesso che fa freddo, ci potrebbe far piacere prepararci magari verso sera una bella tisana. E in linea con noi abbiamo il dottor Luciano Zambotti, che è specialista in scienza dell'alimentazione dietetica ed esperto in terapie naturali, fitoterapia e medicina ayurvedica, che è autore di Le tisane terapeutiche, fonte di benessere, tecniche nuove editore. Buongiorno dottor Zambotti. Buongiorno. Che curriculum. Senta dottore, con lei andiamo a prepararci una tisanina. Di questi tempi fa piacere anche chi magari non è abituato durante l'anno, con i primi freddi, tornare a casa e sorseggiare una tisana fumante scalda il cuore, insomma. Certo. Ce ne suggerisce una buona? Laura Vanossi mi dirà perché secondo te sono cattive. No, ma una buona nel senso... Una buona va bene, facciamo una buona. Una buona che abbia un sapore buono e che piaccia anche magari ai bambini. Una tisana da bere in compagnia, magari in queste occasioni, in questi giorni, si iniziano i festeggiamenti prenatalizi con i colleghi, magari si esagera un pochino, anche i bambini iniziano a fare le festicciole a scuola, panettone, pandoro, pasticciano un po'. Una tisana direi un po' digestiva, ecco. Allora, io vi consiglierei fare allora questa composizione, questa miscela. Tiglio. Un 35%. Melissa, 35%. Sì. Finocchio, 15%. Sì. E alloro, 15%. Sì. Questa è una bellissima tisana digestiva e anche calmante. Induce anche un po' il sonno. Perché c'è il tiglio? Sì, c'è il tiglio, la melissa. Il finocchio invece fa digerire. Il finocchio soprattutto fa digerire, come la melissa, come l'alloro. Sì. Poi la melissa e l'alloro sono anche antispastici, per cui coloro che hanno magari un po' di dolori, di coliche e compagnia bella, i bambini che soffrono di colite, mal di pancia, aiuta tantissimo. Sia senta, dottor Zambotti, nel suo libro magari lei ha pensato ad una tisana da fare dopo un'attività sportiva, ad esempio dopo una bella sciata o dopo una corsetta al freddo? Si ritorna a casa e si beve una tisana al posto del classico tè o della cioccolata, io sono per la cioccolata con la panna, ma insomma, andando di tisana io qui farei timo, sì? Pino, origano e salvia. Pino, origano e salvia. Questa la do al dottor Confalonieri, le piace? Va bene. Sì, Timo, ci proviamo. Pino, è anche musicale. Timo, Pino, origano e salvia. Magnifico. Dottore, ci sentiamo presto, grazie. Va bene. Buona giornata. Grazie altrettanto, salve. Dottor, sì o no? Timo, Pino, origano, salvia. Faccio una canzone. Vero? Una canzone. Ricordate le nostre canzoni, andate a vederle, a votarle sul sito di Radio 24 con Influenzate, la canto e gliele suona, e gliele abbiamo davvero suonate. Hai perché visto? Sta calando. Assolutamente. Forse sono servite anche le canzoni a smorzare significativamente questa pandemia. Ma quando dico che siamo un po' streghe, non la dico mica così. Dottor Confalonieri, baci, grazie per essere stato con noi. Torni venerdì. Prestissimo. Non ci faccia più sentire la sua mancanza. Buona giornata a voi, io vi aspetto domani con Alberto Pellai in Questa casa non è un albergo. Buona giornata, buona tisana, sorridete, state bene. Essere e benessere.